raga, questa qua grande richiesta arriva perché non c'è due senza tre, no? Yeah, e il veleno non finisce mai, specialmente se sei nato a Roma, se ci sei venuto a vivere con il fratello Mad Man. Ehi, Jimmy Tice, rispondo ancora che vuoi, c'ho ancora un po' di veleno per voi, mi vedo solo in 2D come Game Boy, con M sempre sulla vetta come un Gargoyle. Sta merda è forte e ti morde come un Doberman, fumo erba proveniente dal porto di Rotterdam. Veleno e vado agli inferi con le urla e gli impeti, esplodo e non c'è modo di rimanere integri. Ti sfreggia come Ribery, di me non te ne liberi. Ti lascio a bocca aperta come Filippo D. Riconosci il campione? Siamo l'arsenico veleno. Quello che semino entra in circolo e non ti basta uno Terinol. Finisci al tappeto come Jericho Edmundo, I'm an animal. Chiamo un medico con un anestetico che faccia fermare il tuo pianto isterico. Volo come un falco, ovattato dall'alcol. Salgo sul palco, ti spacco come Balrog. Fatti una foto coi divi, clicca poi sorridi. Prima belli poi nocivi, come i baci di Poison Ivy. Doppia M, troppo gemme, troppa gente non fa niente, compra e vende, non la sente, in bocco con lo sfollagente. A tutti i membri della loggia mischio dentro mezza goccia, facciamo fuori la concorrenza come in Borgia. Yeah, siamo il sole nella pioggia, senti questo e poi esci fuori de capoccia. Sei stupido e muori perché scivoli nella doccia. Noi col nome inciso nella roccia. Le tecniche che vanti gasato, tra per me sono antiquariato. Pompo più che canti da stadio, tanto che mi cattivi a radio. Dimmi in fama, spero che spiri, mi odia pure i giorni festivi. Non mi inculo quello che scrivi, coi frappumo faccio festini. Sui quattro quarti preciso come un goniometro, che lascia il vostro cranio reciso come un cocomero. Mi basta guardarti, ti esplode l'osso dell'omero. Tra un'altra dose sposto le cose come fenomeno. Sul tempo doppia, chi va lento è troppa. Pure senza il vento in poppa, non rallento, tengo botta. M come l'MD, la prima volta in panica. Rifà tipo TNT nella calotta cranica. E di M al mondo uno ce n'è, il resto è noia. Niente di fresco, il testo annoia. Io boia, io mi burlo di te mentre rullo con Jam. Stile assurdo di rap, tipo l'urlo di Cem. Baby suck my cock, io fumo Zat l'altop. Scateno il Ragnarok, nuoti tra magma e smog. Poi con i fra in simbiosi spingo un'altra traccia, brindo alla tua faccia fino alla cirrosi. Hater Bruce, a prova di hater, a prova di backpacker, a prova di prete, a prova di ciò che direte, a prova di rete. La gente ci supporta, ci adora, prova, ci segue. Vai. Dall'altra parte